L'organizzazione di questa iniziativa, diciamo, tendenzialmente tende a due scopi fondamentali. Il primo dei quali è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica europea su quella che è la situazione in Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda il conflitto fra israeliani e palestinesi. E dall'altra parte quella di esprimere una forte solidarietà nei confronti appunto del popolo palestinese e degli abusi che subiscono quotidianamente da parte dell'esercito israeliano. L'iniziativa praticamente è costituita da una carovana di ciclisti che partendo il 14 agosto da Hyde Park in Londra hanno deciso di attraversare tutta l'Europa, passando quindi per la Germania, per l'Olanda, per la Svizzera, quindi per l'Italia, per imbarcarsi poi per la Grecia e arrivare fino a Gerusalemme con tappa conclusiva della manifestazione prevista con arrivo a Gerusalemme il 28 settembre, in concomitanza appunto con l'anniversario dell'inizio della seconda intifada. La carovana è costituita esclusivamente da volontari che non sono professionisti della bicicletta, ma sono persone, diciamo, sono ragazzi e non solo, non professionisti della bicicletta, che appunto hanno deciso di intraprendere questa chiamiamola avventura appunto per manifestare la loro intenzione di esprimere solidarietà al popolo palestinese e dimostrare che possono esistere, diciamo, percorsi, anche se molto faticosi, in grado di testimoniare una volontà di pace nei confronti della situazione medio orientale. La carovana di ciclisti è entrata in Italia il 26 agosto ad Aosta e in questo momento i ciclisti stanno per entrare a Roma, arriveranno a Roma il 3 settembre per ripartire poi da Roma il 5 settembre. Diciamo, durante tutto il tragitto italiano sono state organizzate alcune iniziative appunto per pubblicizzare l'evento e per testimoniare appunto anche l'appoggio, diciamo, italiano all'iniziativa. In Italia l'associazione che si è occupata di organizzare, diciamo, il percorso italiano per i ciclisti si chiama Associazione per la Pace e le iniziative che sono state organizzate sono di vario genere, ma tendenzialmente si tratta appunto di incontri pubblici con autorità locali, quindi in alcuni posti per esempio sindaci o assessori, e di incontri con la stampa locale appunto nel tentativo di pubblicizzare l'evento e sensibilizzare quanto più possibile l'opinione pubblica sull'iniziativa. Il costo dell'iniziativa è tendenzialmente a carico dei partecipanti all'iniziativa, che però, diciamo, ricevono anche un supporto economico da parte di un numero incredibile di associazioni che hanno deciso di appoggiare l'evento. Diciamo, l'organizzazione è stata appoggiata fin dall'inizio da un numero notevole di associazioni, diciamo, che si occupano di solidarietà al popolo palestinese, fra cui quelle più importanti sono la Campagna di Solidarietà Palestinese Inglese e un altro gruppo chiamata Amici di Al-Aqsa. Diciamo, il credo di fondo degli organizzatori e dei partecipanti all'iniziativa è quello che c'è la possibilità di una convivenza pacifica fra israeliani, palestinesi, arabi, cristiani e appunto ebrei. Questo tipo di iniziativa può essere molto importante appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che è la reale situazione nei territori palestinesi, che è una situazione, diciamo, di guerra giornaliera in cui gli abusi, sia dal punto di vista dei diritti umani che dal punto di vista strettamente giuridico del diritto internazionale, sono ripetuti e non sembra esserci una via di uscita plausibile in questo momento.